Sura dell'ora mattutina, capitolo 93esimo del Sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 11 ayat ed è scesa dopo la Sura 89 al Fajr. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo, io, Allah, lo giuro sull'ora mattutina e sulla notte quando calano le tenebre, il tuo Signore o Muhammad non ti ha messo da parte e non ti odia. Certamente la vita futura sarà meglio per te della prima. Tra non molto il tuo Signore ti darà ciò che meriti e tu ne sarai soddisfatto. Non ti ha forse trovato orfano e ti ha dato rifugio? Non ti ha forse trovato errante alla ricerca della verità e ti ha guidato? Non ti ha forse trovato povero e ti ha dato abbondanza di beni? Perciò non fare torto all'orfano, non rimandare indietro mani vuote il mendicante e proclama la grazia del tuo Signore.